Lettera ai spagnoli. Vai, parte, escuci la stazione di Giuseppe che si fa chiamare. Appa, cito per cento. Avanti la Spagna in Sardegna, K di positivo. Ecco, io ci capisco la fagualla, Giuseppe, non capisco la fagualla. Vedi, ripeti Mario. No, Mico, Coppa della Spagna che fa chiamata. Attenzione, attenzione, quel Rixi per Giuseppe, arrivato alla Maisonne, K. K, Giuseppe, buon quel Rixi, dai. Ce la riascoltiamo al QTH, dai. Da K. Mario. Bobby. Mario. Mario. Sei. No, Mario. Sorra. E allora, Mari. Ripetilo, ti ho sentito. Ma c'è Giuseppe? No, Giuseppe, QRT Giuseppe, è arrivato alla maison. Mario! Seglia! E gobbi? Già c'è scopo! Ah. E te ne arrivi? Tu cosa mi hai detto? Se mi scoppi! Sergia! Mi scoppi! Ma scoppi non è morto, anche Gimondi ti sembra che era morto. Oi, sta aspettando, siamo rimasti in due. Ah, meglio pur che puri. Ciao, Mario, parole sante. Ma io sono domani presto presto, l'amico mio. 4, sono di partenza. Vieni all'ora. Alla GT, alla GT. Ma domani vai, ma sempre in acqua? Oppure con la cazzo? No, l'acqua, l'acqua, in acqua. Elettrico cinghizzo. Cappa, cappa roccero con la pirettina, ci facciamo luce e ciccia. Ah, cava cava. Gianna me, forché. C'è un po' di più poi, non vendermi. Perché sicuramente poi ve ne trovate. Beh, cappa roccero. Non ti preoccupare, se c'è qualcuno in più, già ti penso. Ehi, ehi, cava cava. Perché che ne so, l'unico che mangia porti, tutti gli altri non li mangiano. Io, loro lo mangiano solo la diavola, i polpetti, i moscardini. E invece a me mi piace il popolo fatto insalata, la diavola non mi piace assai. Cava cava, non ti preoccupare, dai. Se c'è in abbondanza, penso a te, dai. Sì, vabbè, poi mi dici quanti devo volare e me lo vedi, dai. Hai stio, hai stio. Che la gara, avanti, prego. Buonasera a tutti. Allora, buona questa parte. Ciao Antonio, ben sentito, dove te la trovi? Grazie, in questo momento sono a casa, dai. A dopo, Sese. Ma che mio padre ha detto che non fa piacere fare commissioni. Ma invece ancora non sei più uscito. Sono uscito. Ah, sono lui. E tu a domo, a riposarti, stanno così. Ma gara, ero coricato, vero? Ma sarà per tornare, dai. Ma gara, vedi anche a me oggi. Mi hanno fatto un bel sederino. Ma chi era quello che stavo sentendo? Io mi sono appena svegliato adesso. Fortito era, fortito. Mi sono messo un bucaccione che era a vendere le cose, come si chiama, tipo falcone. Tu non lo sai, cari? Sono. Va bene, va bene, ragazzi. Sempre andando con le luci spente, a sogno le accendo. Cappa, ciao Antonio, ben sentito. E dove sei arrivato Gigino? Ma giù Gianni. Gigino te ne ammetti. La prima chiesetta della Budibuti. Cava cava, cava di Roggero, forte e chiasso. E ancora che non mi senti, ti ammazzo, no, dai, forte e chiasso, scherzavo, dai. Ti accompagno fino alla porta, se avessi le sedie. Vediamo un pochettino se ti ascolto, Antonino. E certo che mi ascolti, mi ascoltavi prima, me devi ascoltare pure adesso, capo. Ma ne, se ne racco di butti, vero? Se la fanno scala qua. Ehi, sono dove vengono la linea d'arte, lì dove abita Antonio, cappa in quell'incrocio lì. E adesso sono arrivato dove abitava l'Europa. Guarda, 9.30 era Radio 5, cappa, sei ancora fanno scala, sì. Eia. Magari scendendo più comincia a abbassarsi. Qualche copio Gianni in quella zona, giusto per avere una forte segnale, cambio. 9.10 sei a topo. Si è abbassato. Cappa gara, dai. L'importante era arrivarci. Ma chi lo vedete cosa se ne aveva fatto? Così dai. Mi prende anche dalla zona dove sei in macchina quando cammini, secondo i punti arrivi più forte, in quel momento lì arrivavi 9.20, e secondo i punti arrivi più basso, come ti muovi, trovi ostacoli e tutto, lo sai come in macchina? Già lo so, già che puoi trovare un ostacolo e passa, e comunque dai, momento, Rai. Dove sei arrivato in questo momento, generale Orbio Giorno? All'incrocio col coso. Ma come si chiama? L'arena del sole? Cappa. Bene, mi senti? Forte e chiaro qua di russo. Cappa, Roger, anche tu arrivi forte e chiaro qua, eh? Adesso forse mi abbasso un po' perché sto facendo la discesina, quello che poi va sempre più in discesa, e ci sono le montagne dove stanno facendo la strada nuova, e quindi un po' a segnare lo tappa, confermi? Un pochino sì, però sempre chiaro, sempre chiaro già. Cappa, adesso che sei arrivato a Santiago Nove già, voglio vedere in lunga distanza com'è questa radio, come si sente, dai. Comunque il frattetto che ha fatto salto di qualità, vicinanza e lontananza, la radio è sempre buona, sempre bella forte, come in città. Cappa Gianni, ti ringrazio dell'informazione, Cappa. Dispiacevo, dai. Cappa Gianni, va bene, mi copi ancora? Io ti copio sempre, sono appena in croce adesso, Brattamona, Porto Torre, se Castel Sardo. E come mi copi in quelle coordinate, Gambio? Lasciami fermare perché se no non posso controllare che sto guidando. La radio è pulita? Prova. 1, 2, 3, 4, prova Gianni, se ne ascolti, Gambio. 7 a 8, radio 5. Cappa. Adesso in questo momento c'è lo stesso segnale di Falchetto. Cappa, non so come stia arrivando lì. Comunque in questo momento c'è lo stesso segnale di Falchetto già. Santiago 9, radio 5. Raga, ma non ti sta arrivando bene sempre a tu, dai. Mi stavo passando i centauri, io che mi sposto. Mi avrai in te. In te, Cappa. Stanno usando un marittone, ci stanno ammazzando. Stanno ad ammazzarsi perché quando cammina con la velocità siete in un ostacolo da mano. Posso immaginare. Lasciale andare già, potentini. Lasciale andare a loro. Se hanno due ruote. 80 sono io, Franche, problemi non faccio. Devo arrivare alle 5 a mezzo, ci arrivo giusto. Positivo, lasciala andare, magari si trocchi la valle di Rubudo. Come se le macchine sono poi affiancate, ho preso, una affiancata là. Le macchine là, c'è la mia, le macchine là, c'è la mia. Sempre bene, sto uscendo con le coordinate, Gianni. Gamma. Adesso ce la stanno correndo nel ventino che c'è agli allori. Passare va, domani leggiamo sul giornale. Che cazzo in diretta sapete che sono caduto? Pagappa. Gianni, dove sei arrivato adesso per vedere come sto andando io? Non l'ho mai provata in lunga distanza questa qua, mi sembra. Pagappa. No, ci sei 60 mesi, Gianni. Attento, doppio room, mi ascolti. Mi sta chiamando, no, ma te ne sento uno passo passo, chi è? Mario già. Mario Mancia, Mancia ti sento Mario, qua, e anche in zona d'ombra, Papà, in zona d'ombra come ti arrivo Gianni? Tu mi avevi sempre bene, Franche, con una bella radio, sparato. Cappa Rogero, vedrai che anche Mario sistemerà tutto, dai, e già va bene. No, non l'ho sentito io. Magari adesso da Monterraggio riesco a copiare, non mi spinti. Lui chiama Lettone. Cappa, adesso sta salendo a Monterraggio, sta salendo Mario, Gianni. Cappa, vediamo se riesci a copiarlo. Detto Mario Marce, se mi ascolti, qua siamo in montagna dove il segnale ci guadagna, Cappa. Io l'ho ascoltato a Gianni. Cappa, ripeti il passaggio Mario perché non ti ho sentito. Non ho sentito per niente. uscendo, Mario, stai uscendo, confermi a Tonio. Cosa dire, Caparoggia, dai. Comunque qua, se Santiago 8 già ne lo perru, se Santiago 8 ti ho sentito anche sopra Mario. Cappa, Mario, puoi rimettere il passaggio? Ah, io non parlo, intanto sono basso e mi coprono tutti a me, dai. Li ascolto e buh. Ma in questo passaggio appena appena l'ascolto, sentite, intanto sono basso e li ascolto e buh. Ma l'hai sentito? Già lei ti ha sentito, ha detto quello che stavi dicendo, ha detto tanto sono basso, in questo passaggio mi sto zitto, ha detto quello che stavi dicendo tu. Già l'ho sentito in questo passaggio già. È vero, ma poco fa c'avevo dei motorini e non ascoltavo manco a voi che siete vicino. Cappa. Tu lascio la sbarca, lo copio, vai, c'è di putti, non lo sento per niente, altro. Cappa, cappa, dai, qua sei Santiago 7, sì già, qua già stai arrivando. Vabbè, dai, posso fare la ponte. Però che Mario ha detto che ti sente solo in certi punti. Alleluia. Dove sei arrivato? Sono qua, ma non so se tu sai dove Imola Legno, sono lì. Ah, Parogero, sempre bene mi colpi, cambio. Io sempre bene. Sempre no, e tu non mi ascolti. Sempre occo, Santiago 4, Radio 4. Chiare, quant'è? Segnale 4, Radio 4. Allora, ma sì, il segnale, ragazzi. Come vai così basso? Beh, nelle mie coordinate, se così, lo switcher mi segna quello, non saprei, lo so... Sei da Antonio, Antonio quando ti arriva a te? Piano 7, Radio 5, cappa, adesso c'è tutto il QRM a zero, quindi riesce a arrivarmi magnificamente bene. Gianni, com'è lontananza questa radio? Bene, tu, va bene, ti ascolto bene, dai. La radio è 4, si è abbassata un po', ma ti ascolto bene. Cappa, dai. Ok, il segnale com'è? Buono? Il segnale attuale è un casino, guardalo che sto camminando. Dopo lo guardo quando mi fanno un semaforo. Cappa, dai. Vediamo se mi senti fino a... fino ai granai. Break. Vate il break. Voi che siete tutti giovani bravi, mi potete dare un controllo. Gianni, come sto uscendo che sei lontano tu? Prova, buonasera a tutta la ruota. E Santiago qua è 4, la radio è buona, è 5, vai. E adesso mettete un po' di Santiago, vero? Io sono già in mezzo in palazzo. Appa, ben entrato Mario, ben entrato, da Falchetto, salutoni, E salutate a tutti, Falchetti, a tutti, anche a Antonio, a Gianni, a tutta la ruota, anche a Mario. Anche io, tanto che siamo vicino, lo sentivo molto basso, Marie. Sono senza antenna, Marie. C'ho un stile di macchina attaccata alla ringhiera. Però già è vero quello che mi hanno detto, che ti sei capottata l'antenna. Allora io mi saluto tutti, sono quasi arrivato. Vi saluto, vi auguro una buona serata. Non ferma. Cappa, buon trabacco Gianni, buon tutto, ci ascoltiamo quando le sale, dai, salutoni, avanti Mario per i saluti e fai girare. Ok, ciao Gian, ben sentito, buon lavoro, sto andando al lavoro, quando rientri mi saluti il QRA, avanti Antonio. Cappa, ciao Gian, dai, ce lo risentiamo, comunque stai arrivando Santiago sì adesso. Ce la risentiamo dopo quando sali, dai. Ti mando anche saluti da Mario perché tu non riesci a sentirlo. Ti saluta anche lui. Ciao, ciao, già. Grazie a tu. Buona serata a tutti. Ciao, buona serata anche a te. Ciao ciao, alle prossimine a più tardi, dai. Avanti Mario Vassel. E allora Mario, come sta qua? Sì, insomma, saltellando da un pollaio all'altro come un coso o un galletto. Andà bene, meglio così. No, adesso ritiro tutto, stavo cambiando la batteria a questo mic, capito? E mi ritiro tutto adesso, riprendete voi. A dopo allora Mario, ciao. Mario dai, ce la risentiamo. Ciao Mario, ce la risentiamo dopo se coincide, dai. Ehi a che? Pisolo da Bologna, ciao Pisolo, e allora? Pisolo, vieni avanti! Rock, chi è? Pisolo! Sicuramente sta rientrando a Cagliari. Pisolo! Oh Pisolo, riesci a tirarmi fuori? Cambio! Fuori, eh. Kappa. lui e purtroppo non sentiamo a lui. Sicuro che era bianco. Cappa! numero bianco, ha lasciato il rosso. No, negativo, dai, sempre il rosso, te lo sai, Pierpa, sempre il rosso di sera, per tempo si spera. Avete parlato in due. Ho detto, si è preso l'acqua vite, la massa caffè. Mamma mia, dice, tutta burelle. Cappa. Cappa Rogero, ci vuole un po' di quella cosa, di quella cosa bianca, dai, a purificare un po'. Ho preso proprio, no, no, bisogna un petto caffè, faccio un petto. Capparogero, vabbè, già ci vuole anche quello, dai. Ok, dai. Ma sai che io lo prendo al bar, ne prendo anche parecchi, però non è il caso più buono. Già lo credo già. Lo credo, beh. Prova a fare che vada a Pisolo, beh, se ci sente, Vera. Attento, Pisolo, se ascolti la radio Vera, cambia. Provo anch'io, ma sarà difficile. Attento, Pisolo, se ascolti la radio Falchetto che ti fa la chiamata a cambio. E poi il 18, c'è il direttore del Sassa, io sento, non era il direttore, ho capito male io. Forse ha ragione, Vela, forse è direzione Cagliari, Ho capito male allora, vabbè, pascisce. No, no, io lo stesso sono come te, ho capito male anch'io, può darsi che stia andando a Cagliari, o può darsi che stia tornando qua, a Sierra Sierra, non saprei che dire. Io lo spiraglio bene e poi l'ho perso. Pagappa, anch'io l'ho sentito bene bene e poi boom, man mano scomparendo, sei scomparito. Se sono rose fioriranno. E noi? Hai che tagliato a mangiare la caffettiera. Ehi, riprendi Mario, e tu cosa hai preso? Mario? Ma ho preso il brasiliano! Gappa, gappa, scommetto che te l'hai anche corretto? No, l'ho finita! Ai, quello è grave! Sì, pazienza! Ma se lei non se ne è bene, perché se ne può una malattia. Ah, quello già è vero, quello è vero. Vediamo un po' se c'è Pisolo in giro, vediamo. Attento, Pisolo, se vai copiando la stazione di Sierra Sierra, Falchetto che ti fa chiamata. Cambio! Intreppando, stavi dicendo di nuovo scoppando. Mario, è vero, mi stavo proprio intreppando, Succede, come si usa dire, succede giù crolla, Mario. Ragazza, vabbè, non è cosa cattiva. Quello è bianco e sta facendo effetto, mi. Oh, Vela, poco fa mi fa, Mario, mi stai scopando, io adesso, già ti scopo. Non c'è più religione a questo mondo. Non fa sbagliare la virgola, Vela, chi subito si muove un puntino, mi. Eccoci, qua non ti puoi muovere. Gappa gappa. Ma metti muovi, sei fritto. Ai. Gappa gappa, vabbè. Meno male, noi ce la pigliamo sempre nello scherzo. Se no guai. Mario. io, mi sono a prendere lo scherzo, sì, se no, oi oi oi. Cappa di positivo. Cava, cava. Beh, la fa chiamata a pisolo. Aspetta, devo andare a bere la caffettiera. Cappa. Pisolo, ci sei, Pisolo? la calecca, abbaccia la calecca. E chi è che c'ha la calecca? E se bagnolo è te, le lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu. E io ho attenuato, e non mi accorgo più, e hai ci vedi a parlare. Che va gaba. Ma sentite un poco fa, invece che ho sentito qualcuno di noi, e ha detto Italia, Italia. KK, l'Italia sta pensando a loro, no? Ma siamo nelle isole, nelle isolette vicini vicini. La città ancora è nuda. Ha cominciato a campanare, ma è tutto cominciato a rompere la palla. Paolo sapeva. Ehi, c'è sentato poco, Italia, Italia qui, Italia là. Ah, lo aiuto. Thank you. sento, voglio parlare Pierpa. Ti sento alla grande. Solo che intervengono con le sue cose, diciamo, dai, senza farsi tanto capire, diciamo, dai. Quindi è fuori misura le batterie. dirette le scariche, le devi bloccare a un attimo, mi stavo contro, l'ho spiegato loro. Ah, ho capito adesso, Pierpaolo, adesso me lo sistemo, quindi lo devo mettere a un vatto, così è. Così è. Ah, un vatto, ovviamente, se no, naturalmente, se ne vuole ficcato per risucchiare un attimo, quando un vatto lo puoi mettere un attimino, ma in genere te ne risucchia perché già hai più vatto di quanto hai, ma ti è logico, non vengo. Se invece le metti su un vatto, o su 10.000 watt ti durano di più. Se tu le opere così sono forzate, capito? Nessuna batteria ce la fa, perché tu mi pare, il mio misurato mi pare che arriva quasi a 12 watt modulati, che non gliela fa. E infatti, non riuscivo a capire il perché di queste batterie, due colpi di portante e subito a terra. Beh, comunque, buona a sapersi, dai. Adesso mi rimetto le altre, Pierpa, perché mi sono rimaste le due scapole da coso da mettere a caricare. E le ho comprate tutte, come mi hai detto tu, dello stesso amperaggio. Adesso, questa volta proprio non si sono scusati, sono tutte e sei dello stesso amperaggio. Un attimo, riprendo io, un attimo di bianco. Scappa. Sai, mentre ho fatto, vedrai che ti durano. Non durano stesso tantissimo, però tu devi capire che è una cosa modificata, capito? Quindi tutti quei vatti non regge, te li dà, ma te li dà se lo attacchi con la corrente. Perché più che altro, se tu attacchi con la corrente o con la batteria della macchina, allora sì. Ma se tu lo devi operare la batteria, lo devi tenere massimo un watt, se no le batterie ti devi risucchiare un attimo, ma è chiaro che la potenza è superiore due volte. Che capa di positivo, io questo non lo sapevo, Pierpa, e adesso metto subito le altre due a caricare, perché le altre ci sono già un 4-5 ore nel caricabatterie da presa, no? E soltanto ce ne stanno solo 4. Adesso metto le altre due e gli do un'altra bottarella anche a loro, così siamo a posto. Un attimino e sto arrivando subito. Mi dica tutto. Ma quel microfono non si può mettere a posto quel cosa che c'è al TPT. Poi, a seconda delle volte non ti fa uscire. Cosa ci vuole? Aprirlo? Cosa vuole? Aperto e spruzzato il coso? Capa, ma sto aspettando per fare il tutto quando piatto l'antenna. Così c'è un cuore che mi dà una mano. Cara, grave. Ogni tanto non ti fa uscire, come lo schiacci le vece. Qui mi ho tutto quel coso. Appena che viene il pompone, come mi arriva l'antenna, che dobbiamo fare il lavoro, così mi dà una mano. E gli faccio spruzzare quel prodotto per contatti elettrici. Perché così sembra pulito, io l'ho guardato, ma senza toccare niente, l'ho solamente aperto e gli ho passato il pennellino. Però lo fa sempre. Alle volte invece sparisce, poi nella fase terminale riprende la voce. È campo di positivo. Ma ci vuole spruzzato quella specie di GRC per contatti elettrici. Come ce l'ha quello, il PPT, come il coso, con l'MP4? Questo qui non blocca. No, dico, non l'ha mai visto sotto com'è. L'MP4 c'ha quell'affarino, quel pirulino che entra e esce, anche quello è così. Scappa. E allora sono le slitte che sono all'interno. Io ho portato il soccorso, ma il cavallini magari va a pattina le cose, capito? Anche l'MP4 fa un po' di volte, perché c'ha quella fare cassa di positivo. Adesso non so se c'ho tempo, magari piaccio io e se vuoi ci passo domani. Va bene, c'è il problema. Ci vieni, ci vediamo un brasiliano e niente. Adesso vediamo, adesso ce la faccio, domani mattina ci faccio un salto. Basta poco, io ho addirittura quello proprio adatto, quello secco, proprio per i contatti elettrici che fa quello proprio specifico. E questo è quello che ho, l'MP4 che faccio io, specialmente quando lo lascio un po' fermo, me lo fa, e allora gli do un po' di quello e lui ritorna. Soggette a fare quella specie di patina che molte volte manco la vedi, ti spruzzi quello però ritorna nuovo, eh? Ehi, no, già si vede, già, non sai come esce lucida lucida. Io quando lo spruzzo si vede come sono un pochettino non chiaro, però a me le tagli più tre. Tu lo spruzzi solo senza toccarle nemmeno di passare l'altro lì. Oh, io lo spruzzo di vento, non subito lucide lucide. Eccomi qua, rientrato. Capo Giuseppe. Io quello uso sempre quello perché è molto buono, Non è lucoso, lo GRC, ma di sicuro non esiste, La rovineggia di più. Io tratto sempre il sumaio, e ando sempre lei. Perché anche il secco si asciuga da solo e invece il GRC rimane untuoso, non serve a niente. No, ho detto GRC per contatti elettrici, è una cosa particolare, rimane quasi come l'alcol, cioè come lo sfrutti, lo lasci riposare un paio di minuti e si evapora subito. Quello c'ho io. È secco proprio, specifico per i contatti. Un bel tratto di luce reciso, ozzoso, che non serve a niente, su di pari a tutto. Io l'ho usato una volta in un microfono, per carità, ma ci sono intorno prima a lavare con l'alcol e soffiarlo con l'aria e poi dargli quello per i contatti veramente. E guarda, ti assicuro che una volta quel Mike mi stava andando a finire anche male col GRC, quello rioso. Mi ha detto tanto impacciato, non andava più. Mi ha fatto ha detto, oh, buttare via il microfono. Invece l'ho lavato con l'alcol, l'ho soffiato bene con l'aria. A pressione gli ho dato quello lì e è ritornato nuovo. Ma si può... materiale elettrico. E adesso si è riuscito a mettere il nuovo. Avanti Giuseppe. Cappa. Dove si trova questo spray qui, Pierpa? Perché mai succeda, io qui ci avvicino a casa, però giustamente, come hai detto tu, meglio non spruzzarle dove ci vanno. Ad esempio, il tastino qui della portante può capitare che gratti, no? E quello spray che sta dicendo tu sicuramente gli fa come la mano di Dio. No, Fusaro, però devi richiedere quello per contatti secco, così proprio dici, quello per i contatti elettrici secco, e lui capisce subito il volo, perché siccome c'è anche quello olioso, invece di richiedere quello secco per contatti, 4,50 costa. Averlo saputo stamattina ero libero, anche se sino adesso grazie a Dio non mi serve, però è sempre buono tenerla una di quelle bombolette qui a casa. Oh, io già ce l'ho sempre, no? Già ce l'ho sempre, ce l'ho tutte e due, ma quello lì ce l'ho sempre. Cappa di positivo, Pierpa, e me lo prendo perché effettivamente io ti stavo ascoltando attentamente poco fa, ed effettivamente fare un lavoro come hai detto tu col CRC, poi riprendere il mic in mano, risvoltarlo, metterlo sotto alcol, i contatti e fare tutta quella cosa lì, e arrivati a un certo punto è meglio usare direttamente il prodotto specifico. No, quello oloso te lo rovina, ci impasta tutto, no? Non esce più bene a voi. Quello usa per le specifico proprio per i fatti, per le piste, per le cose, perché tu lo spruzzo, pulisce allo stesso tempo, va asciugandosi, e non rimane né unto né niente. Perché quello oleoso, se ci va a finire la polvere, diventa una cosa peggio ancora, perché si impasta tutto. Infatti poi viene fuori una poltiglia, su quello sono perfettamente d'accordo con te, Pierpa. Avanti Mario. Cappa, non hanno come l'auto quello lì, non hanno come l'auto, quello lì tu lo spruzzi. Fa l'effetto e poi in pochi secondi si evapora. Come l'alto, tu metti l'alto e poi un poco si evapora. Solamente che l'alto non va bene. Capito? Invece quello lì è proprio fatto a forza per i contatti elettrici, in modo che non ne unge e ne niente. Cioè si fa sparire quella patina che si crea, o per la polvere, o per il ruscido, capito? Se lo pulisce te lo riporta come nuovo. Cappa di positivo, Mario, è buono che esistano anche questi prodotti, perché se non sbaglio dovrebbero essere in ottone le piste per il mic, e diciamo col passaggio della corrente sono sempre soggetti a formare quella pattina. Ti vuole grasso spray. Grasso spray. Sì, vedo il grasso spray. Il grasso spray c'è, ma per i contatti così, nei microfoni non serve. Sì, c'è quello adatto proprio per le cose elettriche, si chiama grasso spray e costa 2,50 euro. Grasso spray per contatti? Sì, c'è scritto, specificato proprio, grasso spray per contatti elettrici. Io ho mai usato sempre quello secco che ha dato per le piste e per le cose così. No, c'è anche il grasso spray adesso, c'è scritto per contatti elettrici. Ma non è per contatti elettrici così, no. Sono per altri tipi di contatti elettrici, se la pittadina è un po' grasso, ha un microfono qua e si impasta tutto. Io ho visto che gli elettricisti usano quello, stanno usando quello. E gli elettricisti, ma appunto, ma i microfoni sono delicati, il grasso non ci fanno, il grasso è un grasso, allora si mette nei giguri. grasso che tu pensi, è un altro tipo di grasso, capito? È come CRC, però invece di chiamarsi CRC si chiama grasso spray. E la mia c'è ombre, ma lo uso per la macchina, però è per i grassi, per il grasso spray. Per i contatti va bene anche CRC, no, CRC non va bene perché quando si asciuga si incolla. Ascolta, io CRC, allora abbiamo riparato, come dicevo, a ripararmi un microfono, non andava il PTT, non andava più, doveva sostituire, non so, l'ho spezzato la puntina di CRC, e mi sembra che il microfono sta ancora andando. Non mi vorrei sbagliare, ma sta andando, perciò. Ma loro l'ha fatto andare molto a finire di asciugarsi, allora l'ha mosso un bel po' proprio a finire di asciugarsi, allora sì. Va bene CRC, va spruzzati la regia leggera e lui va alla grande, tranquillo, tranquillo. È normale che dentro un PTT ci sono i carboncini che si consumano, si sporcano, ecco perché fa normale, è una polvere dentro. Però se tu gli spruzzi la puntina, lui va a lavorare via. Per i contatti e io ho dato il suo specifico cosa poco e non così non crei niente. Poi dato lo spray, la spray che e anch'io lo metto di tanto è raro invece di ponere lo spray quindi ci metti i bozzi e l'altro avevo un po' la Coca-Cola io. La Coca-Cola mica va tutta la ruggine, però. La stavolta non avevo mai, che non funzionava, ci ho pensato. La presente lei che si applicava mai bruciare la nafta, ci si bruciava di nafta. Mia fiacola, mamma mia. È un turbodiesel, Giuseppe. Avanti vena, vena. Mi sa che mi sono disinfatto bene. C'ero tutto il giorno in macchina, mi avvicino io, passo io, va. Stappa di positivo Pierpaolo, non ci sta assolutamente problema. Ci avviciniamo lì da Pagliatti e ci prendiamo il caffè. No, se mi taglia male, no, Già sono tagliato male tutto il giorno oggi. Vada tranquillo Vela, vada tranquillo, lo facciamo tagliare bene, ne? Vabbè, dai, riprendete ora che... vado in macchina. Mario. Se non ho sentito male la prossima settimana ho messo bello. Vediamo bene, incrociamo le dita, così la prossima settimana facciamo tutte cose e poi mi posecchio io. Cappa Mario, mannaggia la malina. Sarebbe anche ora, perché che anche tu esca come devi uscire Mario, non è giusto che tu esca così, porca miseria. Cappa di positivo, portala lì Mario, sino a Tramazza. Già mi hanno detto già che qualcuno mi sentiva fino a Tramazza. Poi non lo so, Aspetta. Ecco la... Tu avevi la Mantova 1, ovvero, non sbaglio. 5. Ah, tu avevi la Mantova 5. 5. Cappa. È una bella botta, Da dove sei tu, a Tramazza, è un bel pileto, di segnale lì. Sì, vabbè, ma non serve a niente se io arrivo a Tramazza e poi non li ascolto, capisco? invece terra è come facciamo con Vulcano, arriviamo sino a Macomer e poi ci salutiamo, anche perché poi io a Vulcano l'ho perso. L'attrezzo in mano, e una volta che ce l'hai in mano non gli dai uno schiocco, uno spacciocchiamento alla testina, scusa, con un bello schiocco de morro, scusa, tanto che ci sta. Ascolta, delle persone, vedi che sono delle brave persone, tutti i figli, no? Sì, sì, ma che fa questo, giusto? Non ti infilano niente. Tappa di positivo. Positivo. Questi non mancano mai. Già non basta che ci sono su tutta la settimana in mezzo. Ci manca solo anche il sabato sera. Sera. Tappa Mario. Mario. Va bene, lasciali fare. Se no fanno peggio. Merda. Tappa. Vediamo un attimino se cambiamo noi o cambiano loro. Dai. Ho l'impressione che chi la dura la vince. Vince. Tappa di positivo, che chiacchierino pure. Fino adesso. Assolutamente no, negativo al massimo Mario. Mamma, chi è mai riso c'era. Però cazzo, a testi lì ti hanno preso in giro quelli lì. Specialmente il compagno Urano, che non ti ha reso partecipe, che te la stavano piano piano stava rientrando. Tappa di positivo, se lo vediamo fastidio andiamo avanti così. Così funziona. Vai, dimmi caro. Io ti conosco, sei Terraffa, a 29 anni, non è, però sei un merda. Lo ero prima, lo sono stato fino a poco, lo sono ancora e lo sarò per sempre. Mi comprivamo. Ah, dalla grande Mario. Caspita, a Macomer deve arrivare come una schioppettata proprio, mannaggia la Marina, oh. E dire che e lì, meno male, quando si è incolonnati uno con l'altro, quando gli entri dentro il baracchino deve essere come una fucilata. No, purtroppo c'ha ragione ragazzi, purtroppo è la verità, ma adesso te lo riassumo proprio in cinque parole. Nel 2008 mi hanno messo un verbale perché non avevo più ore, stavo salendo a Olbia e gli avevo detto io non ho più ore, non posso salire. No, sali che se succede qualcosa ci pensiamo noi, vai tranquillo, sali perché bisogna salire di qui e di là. Avevamo preso questo lavoro nuovo, insomma bisognava seguirlo, sai, accontentarli, tutte queste minchiate varie, no? E quindi io coglione, perché alla fine sono un grandissimo coglione, allora ho detto ma sì che saliamo, vaffanculo, manco a far la posta, arrivo a San Luri, dalla polizia. Mi ferma la polizia e mi ha intimato l'altro, me l'avevo messo sequestrato il dischetto e tutte le minchiate varie, mi ha detto tu da qua non ti muovi più. Comunque, ma di fatto che mi hanno messo un verbalone da lì a Villa Cidro e più tolti i punti della patente, tutte queste minchiate, e io gli ho presentato il verbale e me l'hanno preso, mi hanno detto va bene, comunque la macchina poi è salita con un altro e mi hanno preso il verbale, va bene, l'hanno messo in un archivio e adesso è buttato in un cassone isotermico questo verbale, mai stato pagato. E l'altro giorno mi è arrivato il verbalone raddoppiato, capito? E chi se lo deve pagare? La mia ex azienda ha fallito. Secondo voi chi se lo paga? Vabbè. Mario. Io tra un pochino scendo perché sarà momento di arrivare prima. Riprendiamo dalla BM. Ora che se faccio così come mi andiamo sul 10 Mario. Cazzo di anziché 30 centimetri di 60 centimetri, che alla fine anziché pagarmi il verbalone raddoppiato me lo devo pagare quadruplicato, capito? Con tutte poi le spese a seguito di avvocati e minchiate varie. Ma non hai capito, mi sento ancora che sono passato qui, non hai capito, tu con verbale, ma io non riesci a fare 18 ore, ne metti qui, che ho sbagliato sono io. Anche farlo così, ce l'ho a Cuspini, ce l'ho a 5 minuti da casa, lo potrei anche fare, però io ci ho parlato con il mio ex principale, lo sai che cosa mi ha detto? Matteo, non ti posso fare nulla, c'ho 30.000 euro di verbali da pagare, non è arrivato solo a te, è arrivato a tutti gli altri anche, non ci posso fare nulla, non vengo manco su dinate, mi ricai su caffè e mangiamo, figurati che vengo su chiavo di pagare su verbali. Tra 15 giorni c'ho un'udienza, vediamo cosa succede, verranno a pignorarmi a casa, gli occhi di nera. Queste sono state le sue parole.